Siamo al telefono con una compagna del laboratorio Officine Naturali del Forte Prenestino. Ciao, ci senti? Sì, vi sento. Buonasera a tutte. Ciao, ben Ciao. trovata. Abbiamo anche l'anno scorso presentato questo corso di erboristeria. Api, erbette ed erbacce, intrugli, tisane e miscugli. Chi può partecipare a questo corso? Guarda tutti, perché allora, questo è il sesto anno che teniamo questo corso introduttivo di erboristeria e devo dire che già dall'inizio, proprio il primo anno, mi ricordo c'erano 35-40 persone, nessuno se l'aspettava. È stato proprio dire bellissimo, poco, insomma, ci ha avuto da subito un grande successo perché c'è molta voglia di imparare a fare, no, delle cose da soli, di intrugliare cosmetici, farmaci, e in effetti con poche nozioni si comincia un viaggio, che è il viaggio del ricercatore, no? Sì. Perché, e questo corso è proprio un corso introduttivo, potrebbe durare tutto l'anno, quest'anno 4 mesi, qualche volta è durato 5 mesi, potrebbe durare in realtà tutto l'anno, ma perché si possono sperimentare tante Certo, cose, insomma, no? potenzialmente si può E andare diamo avanti proprio le sempre. basi, come io mi sento un po' la maestra dell'asilo oppure della prima elementare, quella che insegna con Proprio proprio l'ABC, diciamo, le delle. piccole l'ABC, no? Quindi che cos'è un po' di storia, che cos'è una pianta, un organismo vivente, che cos'è un minimo di botanica sistematica, che cos'è il tempo balsamico, come si raccolgono, come si conservano, e poi le principali tecniche di estrazione dei principi attivi, che cos'è un principio attivo, un fitocomplesso, e poi si fa una panoramica di un po' di piante che troviamo dappertutto, insomma, anche negli spazi traffici, nello spazio Infatti, a traffico delle riconoscerle strade, no? Tante effettivamente. volte si trovano delle umili piantine e dicevo, ma questo che cos'è? Ma questo guarda, cresce dappertutto, è l'erisi, ma che ci si fa? Ah, questo ti fa tornare subito la voce quando c'hai un abbassamento di voce, una laringite o un principio di faringite, insomma. E poi cominciamo a intrugliare un po' di cose, come si fa una tintura, un oleolito, un unguento, un'emulsione, uno sciroppo. Si comincia Insomma, con le piante veramente quelle più, quelle che troviamo dappertutto, l'ortica, la parietaria, il rosmarino, le calenduline, adesso le pratoline, pieni, i prati di Roma sono pieni di pratoline, che sono queste margheritine bianche che crescono alla fine dell'inverno, spuntano annunciando già la fine dell'inverno, l'arrivo della primavera, no? E quando cominci a vedere questi puntini bianchi che prima sono pochi e poi diventano dei grandi tappeti, io lo vedo qui nel parco che davanti alla biblioteca dove lavoro, è cominciato così in sordina, piccole macchiette di bianco qua e là, e poi è diventato un tappetone enorme. E dice, che ci facciamo con la pratolina? E intanto, per esempio, le possiamo mangiare con tutta la radice, sono buonissime. E poi possiamo prendere i capolini e metterli in macerazione nell'olio extravergine d'oliva, lasciarli in un posto al calduccio, su una finestra al sole per qualche mese perché siamo in inverno, e alla fine con quell'olio lì possiamo massaggiarci quando abbiamo dolori, quando abbiamo preso una botta, un ematoma, una contrazione, una contrattura, un dolore reumatico. Eh La sì, Bellis è. perennis è il suo nome scientifico, e già i romani conoscevano le proprietà, e sapevano, insomma, si poteva trovare la pratolina che spesso fa anche un paio di fioriture, qualche volta fiorisce anche prima dell'inverno, alla fine della primavera troviamo delle seconde o terze fioriture, e questa umile margheritina, piccola margheritina, appartiene alla grande famiglia delle composite, questi fiori che non sono un fiore soltanto, ma che sono dei condomini di fiori, c'è quello che noi chiamiamo, quando ero piccola, che si faceva mamma non mamma, straziando questi poveri fiori, noi staccavamo i petali, quelli in realtà non sono petali, ma sono, ognuno di quelli che chiamavamo petali sono dei fiori, con tutti, quindi l'apparato maschile, l'apparato femminile, l'ovario, il polline, e quelli del centro piccolini, che sembra una specie di bottoncino centrale, sono degli altri fiori che hanno una forma differente, quindi la pratolina è un condominio di fiori in qualche maniera, e ci sono questa grande famiglia delle composite, cioè il fiore composto appunto va dalla pratolina fino al grande girasole, alla cicoria, al tarassaco, quindi tante piante che possiamo diciamo un sapere che purtroppo si è perso molto nel oggigiorno. È più facile calpestarli i fiori andando sempre di fretta che fermarsi un attimo a riconoscerli o conoscerli, e poi insomma diciamo andiamo sempre più verso le catastrofi ambientali, quindi invece è importante insomma avvicinarsi anche un po' più a una dimensione naturale, diciamo così, insomma, sì, di attenzione. Saper dare, voglio dire, un nome, no? Andare in giro per un prato e vedere l'ortica e dire oh mamma mia, questa non punge soltanto. Ma voi fate anche riconoscimento quindi delle piante? Sì, facciamo anche riconoscimento. Sabato prossimo facciamo una visita guidata, l'appuntamento davanti alla biblioteca Gianni Rodari, qui al quartiere di Tor Tre Teste, e andiamo in giro per il parco alessandrino e dalle 10 a mezzogiorno e mezzo, l'una insomma, e con un nostro carissimo amico che fa il maniscalco e che è un esperto di piante mangericce. E quindi le riconoscerà a distanza. Sì, e lui poi ti mette proprio l'entusiasmo, sa, la capacità di trasmettere molto molto amore, no? E quello che ci interessa anche a noi in questo corso è in qualche maniera far venire l'appetito, come se questo fosse un antipasto. Far venire l'appetito, far venire la voglia, no? Di entrare in questa dimensione. Di cominciare un viaggio da ricercatori, no? Allora, avendo nelle mani delle ricette di base, cominciando a conoscere bene una decina, 15 erbe, tra queste proprio più umili, l'ortica per esempio. L'ortica è proprio un'altra di quelle piante proprio benedette, non è che punge soltanto, l'ortica è una pianta ricchissima di sali minerali, è un rimineralizzante, è un antinfiammatorio, quindi va bene per tutti i dolori articolari, è buonissima, per esempio si fanno i tortelli con la ricotta e l'ortica, oppure il risotto con la ricotta e l'ortica, oppure la malva quando abbiamo il mal di pancia, che è dolce, la malva è una pianta invece dolce, dove arriva decongestiona e disinfiamma, è rinfrescante, nonna diceva rinfrescante, e così insomma, no? Andare in un prato e con un minimo di lozioni Cioè abbiamo tutto quello di cui ci abbiamo bisogno, c'è tutto quello di cui ci abbiamo bisogno. È un pensiero abbastanza rilassante, in effetti liberatorio questo. Senti, veniamo, sì. Allora siamo in chiusura e allora diciamo il corso inizia giovedì 24. Sì. Sì. Avete individuato una fascia oraria che a parte i giorni di uscita è dalle 19:30 alle 21:30. Si fa sempre più tardi, ma insomma abbiamo detto 19:30, 21:30. E, giovedì, venerdì, diciamo che più sabato. O meno sono, è sempre, è quasi sempre il giovedì. Questa settimana è giovedì, venerdì e sabato, poi il giovedì della settimana successiva. Le uscite sono di sabato mattina e qualche volta c'è stata l'esigenza di aggiungere un venerdì perché magari c'erano dei ponti, delle feste, delle cose. Certo. E poi c'è un sabato che noi staremo allo Skillshare alla Torre con altri laboratori, ci saranno anche laboratori di tutti i tipi durante questa manifestazione, che insomma ognuno insegna quello che sa fare e noi penso che in quella situazione lì il pomeriggio, il tardo pomeriggio verso dalle 18:30 19 alle 21 più o meno faremo un unguento. L'altro anno abbiamo fatto, mi pare, un'arnica composta, mica mi ricordo, un'arnica composta per i dolori reumatici, per gli ematomi, sempre le botte, le contratture. Quest'anno invece facciamo un unguentone per mamme, bambini, mare, sole, estate. Bene, bene. Ci sono delle piante che sono così, che le puoi usare per tante cose diverse, quindi ti sei fatto un unguentone che ti può servire per la scottatura, per l'ematoma, per infatti invece ecco, di andare a spendere diciamo di qua e di la pelle, di congestionare, levare l'arrossamento per esempio i bambini, il pannolino, le cose, insomma faremo un unguentone per mamme e bambini, estate, sole e mare. Benissimo, allora ricapitolando, dunque sul sito del Forte Prenestino, che è www.forteprenestino.net, tra le iniziative trovate anche questo corso con le date, quindi è inutile che ci mettiamo ora a darle che tanto non rimangono, per scrivervi possono scrivervi a officinenaturali@insiberia.net o se no presentarsi direttamente al laboratorio di Officine Naturali questo giovedì 24 di marzo, proprio all'inizio della primavera, e incontrarvi direttamente. Cominceremo giovedì con una lezione introduttiva, il giorno dopo parleremo di api, perché poi all'interno di questo corso c'è tutta la parte riservata alle api, ci sarà un laboratorio di smielatura, noi abbiamo le api, gli alforti sono anche proprio belle, le api sai sono un indicatore biologico, no? Le api sono molto a rischio di estinzione, gli agrotossici, i cambiamenti climatici, le nostre api sono così forti, belle, in salute, non hanno si sentiranno niente, apprezzate se non del loro propoli. Quindi va bene, noi ti ringraziamo moltissimo io ringrazio a voi.